attenzione canale 10, c'è qualcuno? Hola. Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Cambio. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chi è avanti? Chi è? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est qui ou c'est qui ou? Attention mon ami, c'est toute l'île de la Sardaigne. No, stavo verseggiando i gatti già, e nel tuo del microfono ho premuto e mi è uscito un verso strano, come stavo verseggiando i gatti. Non so cosa si è sentito prima. L'ho sentito. E te cosa hai saggo? No, siccome mi sono seduto sul divano che c'era la gatta, adesso me la sono tolta dalle scatole. Oh, sto sempre verseggiando i gatti, è una cosa più forte di me. Prima non ne volevo, adesso sto sempre accarezzandoli, giocando. Ebbene, non ve nessuno. L'altro giorno ho detto, c'era un deserto, ho detto piano, piano, uno per volta. Non ha risposto nessuno, non c'era proprio nessuno. Ma vai. Allora vedi che sciapizzo quando parli, chiami, è sempre in ascolto, lui viene in agguato come il coccodrillo a pelo d'acqua. Buonasera Antarino. Buonasera anche a lui. Insomma, tutti all'ascolto alla fine, come sempre, tutti in oghi e nessuno fa vendita. E allora, io sto facendo un po' di commissioni, e sono tornato da poco tra medico, certificati, farmacia, edicola, cos'altro vuoi? Siamo passati a un taglio per una bega legale, non cosa tra noi ovviamente. Adesso finalmente posso riposarmi le chiappe. Io invece sono tutto il giorno qua, ho telefonato per quella visita e non ci sono posti. Non ci sono posti, cioè nemmeno a dire tra un anno, non ci sono posti. E quindi cosa vuol dire? Che uno se la deve fare a pagamento, così è. Ma finisce né qua né Alghero, da nessuna parte. Non ci sono medici. I medici se ne vanno oltremare, almeno chi è interessato alla ricerca, tipo. E qua cosa fai? Magari ti mettono al pronto soccorso e ti devi prendere gli schiaffoni dei parenti dei ricoverati o dei ricoverati stessi. Ogni tanto hai visto che c'è qualche aggressione al pronto soccorso. Certo, la gente è esasperata, io ho 12 ore di attesa e poi succede il patatrac. Gianni, riprendi che mi mangio un budino al creme caramel. Goloso! Ciao Natalia! Ti porti appresso la modulazione quando parli, qua perlomeno, forse sono in qualche canale adiacente, te la porti appresso. No, è la TV. Ah, può darsi. Ciao Gianni, ma te l'immagini che si mangia il budino al creme caramel, questo qui? E allora? Marco è goloso, cioccolato, agogò, creme caramel, Nutella. Tutte cose. È un golosone. E beh, in mancanza di sesso io mi rifaccio con i dolci, no? Proprio non ho nessuna voglia, almeno mi rifaccio con i dolci. D'altronde alla fine è come farsi una scorpacciata di dolci il sesso, più o meno. La 50. Solo che mangiare troppi dolci fa male, fare sesso no. Dipende, vabbè, se il cuore non è bello forte, bello tarato, uno ci può rimanere, però almeno muore contento, vedi? Noi siamo andati a prendere uno con l'ambulanza che è morto facendo lo stesso, lo sai? Allegria, vabbè, però forse la morte è migliore già, cioè meglio che morire di, che ne so, dolori, malattie, coso, trombando la morte è migliore, dai. E avere anche una persona conosciuta, capito? Purtroppo a volte ci prendono anche due Viagra, per forza che poi viene l'infarto e ti rimane. Quello è un vaso dilatatore massiccio, quello lo temo, io non ne ho bisogno, ma non ne prenderei nemmeno, perché è lunghissimo, devi essere proprio a posto di cuore. Ma a causa detta del dottore? dolore, causa mal di testa, causa tachicardia, tutte queste robe qua, capito? Sì, sì, già, è vero, perché il vaso dilata e quindi i vasi sanguigni sono più dilatati e il cuore deve pompare più velocemente, quindi tachicardia, per far fluire il sangue in questi vasi belli, quelli allargati, capito? Dilatati, diciamo, da. E non è un giocattolo, dai, il Viagra, non è una cosa da prendere così. Sono cose chimiche, fanno male, fanno male. E Marco, c'è la pompetta, quella che sono l'anno scorso. Gianni, mi hai rubato la battuta, la volevo dire subito dopo che mollavi, mi hai preceduto, mi hai letto il pensiero. La pompetta, mica la vuole Natalino, la pompetta. A curiosità, io ce l'ho già la pompetta. Sempre a parlare di piselli finiamo, di cose sconche. Domani sera, cazzo, già me la entra nel pisello la pompa, quella lì. Natali, io lì avrei consigliato un ansiolitico, almeno fai bello serafico, arreso, diciamo, no? Rendido, come già lo sai cosa avevo preso io, no? Ne avevo preso uno intero da 2,5. Quindi ero arrivato bello sedato, ero arreso al mio destino. Stringi i denti perché non è doloroso, è fastidioso semplicemente. Niente che non possa essere superato, ci mancherebbe. Sono cose che io ritengo peggiori. Io la gastroscopia la ritengo peggiore, anzi la temo più di ogni altra esame invasivo al medico, capito? La temo più di avere i tubi davanti, dietro, ma in gola no, guarda. Oh, mi scusate un attimo che devo regolare il stazionario. Dai. Ok. Ehi, ma hai proprio accordato o stavi solo controllando, misurando? No, io stavo misurando, dai. Perché da una parecchia all'altro cambia, capito? Ehi, ehi. Insomma, domani, vabbè, io poi devo fare altre cose dal medico, per mamma sempre. Vediamo se le danno una certa cosa. Intanto di guadagnato, dai. Quella visita alle 8, dimmi tu, Mancuzzi di Vivaldi, di Gosi. Ma domani sera, alle 8 di sera? E allora, è un favore che stanno facendo al mio dirimpettaglio, a quello che è medico, se no non vedo da di là. E poi ti scombussola l'orario, vabbè, però è buono che lo faccia, non è? Ma cosa devono fare loro? Solo guardare o prelevare un campione? Non lo so cosa devono fare, vediamo. Mi sono spostato. Bisogna andare da quest'urologo a vedere la situazione, me lo fanno in ospedale. Vabbè, ti è andato anche, meno male che almeno lo fai in fretta, dai. Se no le attese, guarda, le attese sono una rottura di scatole. Comunque questa sanità sta andando a rotoli. Te l'ho detto, ancora bisogna chiarire questa storia col mio endocrinologo che è latitante, non c'è mai, non sanno mai dirti quando c'è, dice che non può più prenotarti lui la risonanza entro pochi giorni, io la facevo, no? E dice, tu mi ha detto l'infermiera che è cambiato ed è cambiato in peggio, quindi detto da loro. Mamma mia, grazie a Dio le medicine ancora l'ufficio farmacia le dà gratuitamente. Secondo me arriveremo al sistema americano però. Non lo dire due volte perché anche quelle del diabete che ci davano praticamente gratuitamente, alcune le paghi adesso. Sì, sì, lo fanno così, piano piano modifiche, restrizioni, alla fine ci pagheremo tutto, chi può pagare, chi non può pagare muore. Allora, se le prendi certe marche non le paghi, se di altre marche le paghi, quelle che prendevo normalmente se vuoi aggiungere nessuno. Eia, sì, gli Stati Uniti sono allucinanti, e poi anche se sei assicurato, negli Stati Uniti devi fare delle operazioni particolarmente costose, l'assicurazione copre solo un tanto, fino a una certa soglia, dopodiché te li devi mettere di tasca, se non ce li hai, amen, andate in pace, capito? Vabbè. Casino, Marco, casino. Oh, sono passato in piazza Castello, no, per andare da questo notaio, che era tipo piazzetta Itili, come si chiama, dove una volta c'era Modica. E beh, in piazza Castello ho parcheggiato lì la moto, perché c'era un vento freddo che non te dico, e io avevo solo, allora, sotto la giacca, che era una giacca discreta, avevo solo la maglietta, però il freddo si sentiva, perché lì il vento era teso, proprio brutto il tempo, Ma dice che in Alta Italia sta anche nevicandomi in certe zone. Non ti credo, l'avete fermato. Tempo del cavolo sta facendo. Comunque, il dirimpettaio, la moglie ci hanno fatto l'assicurazione, perché dice che arriveremo come in America. Se non c'hai soldi non ti puoi curare. Eia, ma l'assicurazione ha senso? Cioè, se tu hai soldi per fare l'assicurazione, adesso io non so i costi, aspetta che abbasso il ricevitore, non so i costi quanti siano, se uno ha i soldi per l'assicurazione, ha i soldi anche per pagarsi magari piccole cose, non so se abbia senso, quali siano i termini assicurativi anche, E a me lo dici? Non se ne comprende nulla. Ma freddo ci avete voi, io sto crepando di freddo. Allora, io siccome mi stavo muovendo da poco fa, fresco, freddo no, però ieri notte ero, allora ti spiego, jeans, con le scarpe, vabbè, le scarpe, jeans, maglietta e una felpa. E avevo un freddo ieri sera, ieri notte, un freddo, mi sono dovuto mettere la camicia a maniche lunghe e tra la maglietta e la felpa, capito? Io guarda, sono sotto le coperte e non ti dico altro. Mi stavano venendo i brividi di freddo, come viene dell'influenza. No, c'è freddo. Io sono con la stufa accesa qua perché sono seduto e quindi mi sono acceso la stufa. C'è freddo, non ti preoccupare. Poi il sole batte poco, quindi c'è umidità. Eia, beh, è tutto strano il tempo. Ti ricordi due domeniche fa? Mi pare fosse due domeniche fa, quel sole, quel caldo anomalo, e c'era mezza Sassari a Platamona, al mare, in costume anche. Poi ha cambiato di nuovo freddo, vento, è tutto un... Ah, non sai mai come vestirti già, devi sempre controllare il termometro esterno, perché io c'ho, vabbè, quella stazione piccola meteo, no? Cioè, è come una sveglia, no? Si fa vedere la temperatura... come la temperatura, pressione barometrica, umidità, le solite note. Ah, in motopompa. Questo è il ciccalino di Alessio, sempre. Oppure tu sì. Allora, quel picchiriolo c'è solo lui. Comunque già, hai visto quel prezzo di quel microfono? Bello da morire, però cacchio, 200 euro. Ah, conta 190, più la spedizione, immagino. L'ho pagato 70 io quel microfono lì, nuovo, 70 euro. E ce l'avevo però da tanti anni, Non so se 70.000 lire o 70 euro, se non mi ricordo. Però è eccessivo il prezzo. Sì, veramente, guarda, se ti fidi nemmeno l'MC60 costa così. E ho detto tutto. Quello io è l'Echo Master Plus, non è altro che l'Echo Master Plus, quello che c'avevo io. A parte che quello non deve essere manco nuovo, perché l'Echo Master Plus non c'ha quel gommino davanti al microfono, quello nero. Quello lì di solito le l'aggiungono chi ce l'ha, però nasce scheletrizzo, nasce col microfono fino. Ah, la spugnetta, sì, può darsi che sia, sì, tanto si toglie a mano, e la puoi inserire e togliere a mano, presumo. Però bello, ed esce anche lì limpido, guarda, c'è il circuito, l'hanno lasciato uguale, la modulazione è bella limpida, però 200 euro. Ce l'avevo io, non te lo ricordi, poi l'ho buttato via perché non ha più funzionato e ce l'ho buttato. No, usciva a tratti o non usciva, alla fine mi sono rotto le palle, ho aperto 50 volte, ho messo lo spray, pulito, fatto, niente da fare. Sì, magari qualche componente ha cominciato a andare in perdita. No, si consumano quei carboncini. Anche a Giulio le era successa la stessa cosa. Ma, che carboncini? Ci sono dei carboncini, dei cursori. Ah, il cursore stesso, ho capito. Beh, se uno sta alza, bassa, sì. Dopo tanti anni di uso, posso capire, tanti ma tanti anni. Invece se uno non sta sempre alza, bassa, alza, bassa, in una posizione ottimale, magari gli dura anche di più. Perché ti dico è troppo alto, è troppo basso, tu stai sempre regolando, alla fine poi lo smalli. Infatti bisogna mettere un volume e lasciare quello, basta, fisso, non si tocca più. Eia. Vabbè. Però non ho capito, dalla foto non ho capito dove è l'interruttore del beep, del Roger beep. Ce n'è uno dietro, non lo so se è quello. Io non l'ho mai usato il beep. C'è un interruttore dietro, nero. Allora deve essere quello, perché sul frontale ci sono altri controlli, c'è il LED, il V-meter, i cursori, il V-meter te l'ho detto, poi il PTT, e allora deve essere dietro, sì. Sì, è un interruttore di quelli normali, accendi e spegni, di quelli classici proprio, dai, nero rimane. Comunque avete notato per i baracchini sempre l'eco è considerata una cosa sempre da infilare in ogni microfono, in ogni apparato. Anche i prisoner sempre hanno l'opzione eco, anche i più semplici hanno l'opzione eco, come se fosse una cosa indispensabile, come può essere lo squelch, l'RF gain. Vabbè, io la vedo in quell'ottica, lo sai, non amo l'eco, quindi. Infatti, perché c'è chi è appassionato dell'eco come piace a me piace, ma non eccessivo, deve essere appena appena, in modo che ti dà l'amplificazione della voce, però nello stesso tempo non disturba. Esatto, sì, infatti così andrebbe usato, appena accennato che gli dà quel bel effetto, ma non sparato, capito? Va bene, Antonello riprendi. Buongiorno, dai, comunque. Ciao Lello! Ciao Bambella! Adesso mi sono andato io, Lello, ti piace Marco questo? Mi ha voluto. Antonè, poi dal medico ho preso tempo, non ce l'ho fatta ieri. Ho capito. Marco, l'hai sentito quello lì dell'apparecchio? Ho visto, non ti preoccupare. Sì, ci mancherebbe. Da qui, dopo. Ma questi bimbi che ha parlato gli amici? Antonè, questo bimbi che ha parlato gli amici, questo cicalino. Pronto, Telecom Italia Mobile, informazione gratuita. Il numero da richiamato momentaneamente assente. Sì, subito bimbi di uno, Mi ha detto, dove è che ha parlato l'ha messo? Ma non l'ha messo nel kit, la 140. Nella controvalia se ce l'ha messo lì. La 140? No, ce l'aveva in quel 680 lui, quel bimbi lì, è una sera, E adesso l'ha messo in questo baracchino qua. C'è un motopompa quello. Già me lo ricordo che ce l'aveva anche qui. Era l'unico che ci aveva con queste cose. Il pipiriolo gli piace. Qual è il beep che vi è piaciuto nella storia della 27? Degli apparati retro, tipo, che so, in quinto, oppure l'MS200, oppure qual era quell'altro? Mannaggia. Quello della I, che dava fastidio alla Rosa Verde, io ce volevo in quinto. Quando entravo, vecchio della Rosa Verde, gamba. No, più rotto lì quel beep. che c'hai un senso di superiorità nei confronti degli altri. E a Rosavello aveva fastidio, anche io ce l'avevo la ghigliottina e facevo un bip prolungato sempre. Sì, anzi a me la ghigliottina, mi pare il modello, poi c'era un modello solo di ghigliottina che aveva quel bip e mi pare fosse il 27 95 10, perché se ricordate non erano tutti uguali. Allora c'era il modello che aveva solo tre bande, no, 40 sotto, 40 normali, 40 sopra. Poi c'era il modello che aveva, mi pare, 4 o 5 bande, no, il classico, il più completo. C'era un modello che aveva il fine coarse e invece quel modello che aveva solo il fine, senza il coarse, capito? E mi pare sia proprio il 27 95 10, che era completo di tutto, compreso il famoso bip, quello qui, è proprio un tiraria. Allora sai come sto schiacciando il microfono col piede? Perché che microfono c'hai? MB più 4, però siccome sono sdraiato ho allungato il piede e schiaccio col piede. Bisogna mi mettere un interruttore in terra così schiaccio sempre col piede. No, pensavo che ti avessi fatto pedali. Cazzo stavo dicendo, Marco, io quello ce l'ho vengo con Gianco Aristocrat e il Tamer MB2 da cosa? Non da tavolo, ma MB2 quello da mamma, vai, quello celeste e grigio. Allora, Giambo Aristocrat, ricordo il nome ma non ricordo il Watt, era della CTE, vero? Non lo ricordo, Marco, tanto ci tanti passa che ce l'avevo a casa di mamma, era vero, non lo ricordo, 1200 Watt, ma non ottenare 600 dai, pareta. Ma roba di guai, va via. Se mi spendeva le luci, la te riabbassava il luci, mamma è entrava dentro. Mi abbassa quella cuore che non si vede per nulla. E il Giambo era tremendo. A me esteticamente piaceva molto della CTE al lineare Galaxy 1000, ve lo ricordate? E mi pare che l'ho visto, sì, l'ho visto in vendita, ma non l'ho mai avuto, non mai avuto. Ma a me diciamo che mi piacciono più quelli transistorizzati, quelli valvolari. Quelli valvolari come scalano le valvole, devi cambiare, invece quelli transistorizzati sono più piccoli, più malleabili. E allora, non vogliono accordarti, invece quello lì, quello valvolare è più complesso da usare. Infatti, poi quando tu vai a vedere la valvola, anche quando è spenta, ti dà la slacchiata come ha fatto a te. E a me mi ha davvero la schiada, mi ha defibrillato, o come ha fatto la persona che si è diminuito, ha portato abbassata il microfono e si è trovato tutta la casa con la cera e scoppiata. Non va a niente, burro. Ma trova la quarta ora, era convinto che non va a gente. Ogni modulazione, già si pietà per il mio rispetto. Qualcuno ha sorto il capo di lantenna, Buda, che hai sbagliato. Invece a Sina M, pare che in FM, a punto la porta si dice c'è l'antenna. Ti pregiare. Comunque gli ha fatto. Così quel periodo, perché c'erano le gare, Marco, tu non so se hai mai partecipato alle gare. Le gare, ma i più forti di Sassari che facevano sempre le zone un po' lontane, no? E mi ricordo, sì, a centinaia, a colpi di kilowatt, a Sassari, e già me lo ricordo, dai. Sì, i più forti erano Walter, Marco, e cosa, Vittorio. Insomma, c'erano pochi furti, dai. Sì, mi ricordo. Sì. Diabolic, 131, Giove, forse è Claudio, non lo so, il barbiero, sì, per forza, qua la sera su dove era sicuramente partecipava anche lui, e lì è a botte di kilowatt, qualcuno riusciva anche mezzo piangendomi dalla sconfitta, mi ricordo. Vittorio aveva crepato l'antenna anche lui, l'altro. Sì, si smonteva. Se sbagliavi lì, cata, ma che era l'antenna, ma che non rigia, mi si rifate, allora... È finito anche in quella piscina. Era macello. Quando? E si scioglieremo in piele. Lui ha più di una volta in piele si sono asciutti. Comunque a me questa passione per i walkie-talkie, vabbè, ce l'avevo da bambino, che mio zio mi aveva regalato quei walkie-talkie giocattolo, no? Ti parlo proprio del 75-76, ma poi mi piacevano quelle serie TV tipo Hazard, dove vedevi queste belle macchine americane, non le scatolette nostre, e dietro avevano un'antenna sul baule, attaccata al, siccome erano tre volumi, no? Avevano un'antenna sul baule posteriore, e vedevi questi dice trasmittenti, da. La cosa che non ho mai capito, vabbè, forse lì era per forza una cosa del telefilm, no? Per renderlo più divertente, è che i Duke e lo sceriffo praticamente avevano tutti la stessa frequenza, potevano parlare tra loro, mi. Potessi pure che negli anni 70 in certe contee fosse anche così, mi. Però se sgarravi lo sceriffo ti faceva pezzi. Io guarda, mi ricordo che vedevo le macchine con telefono, mi sembravano cose dell'altro mondo, con telefono dentro la macchina, invece l'America mi viene in sala gara. Ehi, te li ricordi i famosi Goldatex abusivi? I Goldatex, che quelli erano i migliori, c'erano, mettevi praticamente sul tetto di casa, mettevi l'antenna, no? C'era l'interfaccia che ti convertiva da telefono a via radio, no? E in macchina lo stesso, c'avevi la veicolare col bel Goldatex, belli ingombranti anche, no? Con la cornettina. Solo che il problema è che all'epoca se ti beccava le scopposte erano dolori, non è la roba omologata, mi pare. No, non c'è un bambino dove faccio un servizio ambulanza, raggio telefono si chiamava. Ehi, però non so se fossero regolamentati all'epoca, mi sa di no. E l'ente che ne aveva di tutte le portate, portata a un chilometro, portata a 5 chilometri, 10 chilometri, 30 chilometri, sai, quelli più potenti che avevano proprio 5 watt, forse anche di più però, da casa forse anche 20 watt. E poi cosa vi volevo dire? Poi erano belli anche quei film tipo quello dei camionisti, papera anatra di gomma, com'era? Era con voi o era un altro il film? Sì, me lo ricordo vagamente anch'io, non lo so mai che c'erano omologati, non lui se vanno una volta per parti per ricevere le chiamate, se magari c'era qualche altro trasporto da fare ci chiamava l'unico nel radiotelefono. Aspetta, ho difficoltà a capirti bene perché l'eco è troppo forte, anche la ondulazione. Toglierò già quell'eco, da. Sei incomprensibile. Fatto? Sì, sempre. No, stavo prendendo gli occhiali, dai, me ne sono dimenticato poco fa di toglierlo. Comunque dovrebbe essere con voi il film. Poi vabbè, in tempi più recenti facevano, che ne so, quello Chiodo Arrugginito, com'era? Chiodo Arrugginito era il nome del camionista. Porca miseria, come si chiamava quel film? E c'era quell'attore che faceva anche Fast and Furious, che poveretto poi era morto, quello biondino con gli occhi chiari. Radio Killer. Tutti quei nominativi li hanno copiati, Radio Killer, Chiodo Arrugginito, li hanno copiati da quei film. Eia, anatra di gomma, vabbè, anatra di gomma è un po' banale com'è, c'erano nominativi più, no, più teci, più tosti. Vabbè, bei tempi comunque, io me li guardavo quei film dei camionisti perché mi piaceva il baracchino, quindi... Anche i Chips avevano lo stesso, la radio sulle motociclette, poi che belle quelle moto, mamma mia. E i Kawasaki erano quelle moto. Sì, sì, mi pare proprio Kawasaki. Adesso vabbè, non le guardo da un po', la verità. Li danno tuttora ogni tanto, tipo di notte, in qualche canale li danno ancora i chips. Ferrari era un Midland. No, ma Natalì, secondo me Motorola. Midland era. Ma si vedevano, perché o è un errore del film, ci hanno messo Radio Midland giusto perché erano a portata di mano, però io credo che la pubblica amministrazione americana abbia usato sempre Motorola, da quando ne ho memoria. Sì, vabbè, quello era un film, mettevano il cazzo che volevano. Sì, sì, anche in certi film, per esempio certi film americani attuali facevano vedere la polizia che parlava e poi sai cosa c'era? Un baracchino messo e si vedeva che era un baracchino. Sì, ma invece sono i belli film fatti bene anche nei particolari, che vedi la radio che è quella vera della polizia americana, eccetera. È bella roba. Comunque a me le macchine americane piacevano sempre, anche quelle della macchina in Starschiacci, cos'era? Una Ford Torino, può essere, non me lo ricordo manco più. Taurus, no, Starschiacci avevano la Torino. Oh, boh, chi lo sa, adesso non, la verità non me lo ricordo. Una Ford Taurus era. Marco. Guarda che particolare, siamo andati a vedere, quando uno c'ha la passione, la marca del baracchino, l'antenna. Di quei baracchini di Cugini Duke, ma era una cosa piccola piccola, mi proprio, sai cosa sembrava? Di quei miserabili 23 canali, proprio il minimo sindacale, ma appena c'era volume squelch e canali, boh, piccolo piccolo, anche bruttino come baracchino, mi. Io mi aspettavo di vedere già di quei Cobra tipo il 3009, no? Con l'aspetto classico, che tanto all'epoca ce l'avevano già dagli anni 70. E ce n'è sempre in vendita i 3009, ci sono anche seconda mano, ne trovi in vendita da tutte le parti. Ah, io l'ho venduto il mio. Ma l'avevi venduto funzionante o... Chi è che aveva avuto... No, Natalino aveva avuto il problema col modulatore. Il mio era perfetto, funzionava perfettamente, solo che me l'ha chiesto un amico per darlo a un suo amico e gliel'ho dato, tanto ne avevo troppi. Natalino è stato sfortunato, ma una cosa così strana. Ah, però c'è da dire che Natalino, avendolo preso dalla Spagna, era una versione assai lonfia del 3009. Assai lonfia, secondo me aveva la scheda del CRT, cioè il 3009 fatto dalla CRT francese, e infatti è diverso. Infatti, io ho avuto una carogna con la Parigi, e ci va bene, mi piaceva un sacco, mi sei passato. Però, è perfetto. Però la cosa strana, Natalia, hai detto che la scheda era anche montata storta, come quasi che forse in origine un 3009 originale, ci hanno messo la scheda del 3009 della CRT, insomma vado a fidare dei venditori esteri, poi è estero, sai com'è, no? Per la garanzia è un casino, vabbè. Ma io tuttora ogni tanto ci penso, mi vado a vedere la pagina del 3009 nuovo, quello che esteticamente fuori è come questo, però dentro è come il 5555, è moderno, con tante opzioni, tante funzioni. Io lo so, questo stabilimento, diciamo, una partita tutti con la scheda, può essere praticamente storta, sono usciti, la scheda non era del 3009 perché tutti i componenti diversi, c'era un casino in poche parole. Cavolo, Natalì, ma così c'è un manicomio, si sente la TV, gente che urla, gente che parla. Si sente più il televisore della sua voce, mica Natalì lascia forte, ma si sente di più il televisore. Dopo 30 anni sono andato da Zara in Piazza Zuni, o meglio io andavo lì quando ancora si chiamava Upim, lo sai, non c'era andato ancora col nome Zara. Sì, tutti vestiti in fighettini, così prezzi, vabbè, abbordabili. La coin è più cara, le coin sono dei ladri. E lì i prezzi più abbordabili, però sono entrato e uscito. Ho detto, aiuto. Ma dai cinesi che spari di meno. Però poi ne esci vestito di plastica, tutto brassica, puro di mudandi. No, se ce l'ha la roba buona. Se sai comprare già c'è la roba bella. Sì, vabbè, poi loro volendo la ce l'hanno, certo, paghi di più. Ma non c'era anche Antonello qua, occhi per lui. Antonello! Ha chiamato due volte e non mi ha risposto. A meno che non sia dalla sorella, perché ho sentito come la voce di un bambino che aveva premuto la portante e aveva detto qualcosa. Forse sono a casa di... Oh, come si chiama la sorella di Antonello? No, non mi vengono più i nomi. Giovanna Coca-Cola. Oh, Giovanna. E io che la chiamo? No, ha detto Marco, forse sì, a casa di, tieni a casa di tua sorella, perché sentite i bambini. Io gli ho detto, e non gli veniva il nome, gli ho detto, come si chiama? Io gli ho detto, Giovanna Coca-Cola. Aspetta, te la chiamo subito, 2 minuti. Allora, compri. No, perché Antonello ha detto che ha messo l'antenna a Giovanna, così credo di aver capito. Un'antenna ACB, non so a che altezza, se l'ha messa nel terrazzino, se l'ha messa su. E mi chiedevo se fosse appunto da casa sua. Io mi ricordo che a Giovanna le aveva messo la Turbo 2001. E come andava? Già la sentivo io. La sentivo Santiago 7, Santiago 8, così. Già la sentivo. L'ha messa al terrazzo. Poi adesso dice che ne vuole mettere una sul tetto. Boh. Chissà che è contento l'amministratore. Che già gli faceva storie per un'antenna tempo fa. A meno che non abbia cambiato amministratore. Che lo so, ma non l'ha mai spuntata però. Sì, ma infatti è casa sua, cioè lui la metteva nel suo coso, nel suo lì, dove ti affacciavi, nel terrazzino, come lo vogliamo chiamare. Ieri è venuto uno dal palazzo, voleva la chiave del tetto, perché doveva fare alcune fotografie, e ha detto, guardi, non ce l'ho qua le chiavi, non ne ha aiutato. Ma magari deve fare la foto alla tua antenna, un altro che fa volantinaggio. Quello che ho pensato io, ho detto, ma mi devo dare la Zappettini, no, lascia perdere. Già, sicuramente tu usi potenziometri, quindi non li puoi usare. Chissà se era uno scherzo, Marco, quello lì, non l'ho mai capito. Sì, se volevi fare pugnetti di un cavo di un'antenna. Che lo sa, poi non ho più saputo più niente. Tu dici che chiavi non ne hai, che ce l'ha l'amministratore le chiavi. Io le chiavi ce le ho perché mi ha fatto il doppione, me le ho fatte prestare e le ho fatto il doppione, se no non avevo avuto manco io mi Natale. Ehi, lo so, ma tu dici sempre che non hai. Prima volta quando... Sì, non mi ho riscindato perché l'ho addormentato, dopo un pranzo mi ha suonato il campanello e mi ha svegliato. Sono andato mezzo dormito con le... senza scarpe, scalzo. Magari dal sonno, magari dal sonno ti alzavi nudo, andavi a aprire nudo. Con la pillola fulmine. No, che c'è freddo adesso, magari d'estate mutate già mi fa trovare. D'estate sì, perché soffro il caldo. Io per me se fossi solo starei pure senza buttarmi in estate. Poi bussano, magari distrattamente, te vado, cosa volete? Paradrodios. Ciao Carlo. Ciao a tutti. Ciao Carlo. C'è il para e lo spacca Trudio. Lo spacca Trudio per il zoo. Esatto, bravo, vero che sei aggiornato. Col tanga vado a aprire. Bello mi. Ai che bello. Oh, yeah. Speriamo non ci sia nessuno all'ascolto a casa tua, se no ti mirare per mani a cicca. No, no. va bene, io sono rientrato adesso, mi sono fatto una passeggiata a piedi, ero alla GBC cercando un condensatore per aggiustare un alimentatore da Tonino, un montinaggio quel posto, non trova niente, dicete se lo trovo ti faccio un colpo di telefono, e va bene, poi sono sceso giù da cosa, da Fusaro, invece ce li avevano subito. Poi Tonino, boh, oramai pesce, non lo vedi che non ce la fa più, ha licenziato quel ragazzo che l'aiutava, gli faceva tutto, l'ha licenziato e da quando ha licenziato a quello è uscito di gamba. Montinaggio è diventato. Sì, sì, dietro addirittura c'ha bottiglie di plastica buttate, buste di spazzatura, di tutto, non può neanche camminare, lui cammina sopra i rifiuti, cazzo, capito? Per un magazzino, ma... Sul serio, Carlo, è arrivato a quel livello? Esatto, se tu capiti lì, prova a guardare dietro il bancone dove c'è la cassa, ed è proprio un mondezzaio vero e proprio. E allora vuol dire anche psicologicamente è andato, mi... È probabile, anche a me mi ha dato quell'impressione lì. Oh, io ho poco da dire perché sono disordinato, poi la camera mia è tutto scatole e cose, sembra l'ingresso di GBC, perché sembra la camera di un ricettatore. No, io sono il contrario, io sono troppo ordinato. No, poi sai cos'è già, io ho il vizio di conservare le scatole anche di qualsiasi cosa compri, paracchini, stereo, tutta roba elettronica, ho sempre questo coso di conservare la scatola, cose come se la dovessi un giorno rivendere, lo venderei con la scatola e ha tutto un altro aspetto, capito, la roba. Però poi alla fine se ti ingombra, capito, poi vabbè, una volta costretto lo butto il cartone. Ma io le scatole tengo solo quelle degli apparecchi importanti e cose, se no se per dire un alimentatore o una cosa così, no, non le tengo, dai, ce le butto via, mi tengo la garanzia e le istruzioni, quello sì, però la scatola ce le butto. Cosa volevo dire? Aspetta, a proposito di scatole, di... mannaggia, mi è sfuggito, dei baracchini. Che allora pare, ho visto vendere a caro prezzo su eBay la scatola del Superstar 3009, cioè la scatola venuta tipo 30 euro, 50 euro, o per amatori, per fissati, non ho capito perché, e io ne ho due, adesso vendendomi due pezzi di cartone mi faccio magari fino a 100 euro. Io a Luca le ho regalate, quella del 3009. Luca Del Monte, e lui me la chiedeva spesso la scatola, adesso ho capito perché. Perché vale, cioè c'è gente che la compra. Io, ma come fai a vendere una scatola di cartone? Tutto si vendono, anche le istruzioni. E fra poco non ce l'hai, paghiamo, ma oh cazzo. Oh, yeah. E ben Natali, buone nuove. E domani devo andare a fare quella visita all'urologo. Ah, e quindi devi aspettare a lui a vedere cosa ti dice allora. E domani sera alle 8 devo andare. Per grazie a Dio riesco a farla, perché al cupo non c'è posto. E quindi né Alghero né da nessuna parte, capito? E va bene, dai. Importante risolvere in un modo o nell'altro, meglio così, così magari ti danno insomma qualche dritta, cosa devi fare, cosa non devi fare, se no stare così viene un po' in salita. E una domanda per Marco, hanno finito col 110 da te, Marco? Credo non del tutto, e ti dirò di più, che qua era intervenuta dopo una seconda impresa, era intervenuta una terza impresa, perché la seconda impresa c'aveva solo due piccini e se la stava prendendo troppo comoda, troppo a rilento, e allora è intervenuta una terza impresa, che però lo stesso sono due persone, cioè poi il colore della facciata è imposto perché non è il colore che volevamo noi, e non fate di un giallo, ma per carità, vabbè, tutti si lamentano, chiede una cosa o chiede l'altra, e allora non facevamo niente, non ci saremmo lamentati di niente, tutti vogliono fare, poi si lamentano. Ho capito, anche da noi la stessa cosa. Adesso se ne sono tutti andati, ci sono solo gli operai che stanno cambiando l'ascensore e niente, sono tornati i serramentisti per regolare le finestre che avevano messo, perché magari molte erano da regolare, qualche serranda che non scendeva perché c'era del cemento nelle guide, capito? E quindi stanno facendo questa roba qua, stanno mettendo a posto. E poi niente, poi hanno fatto fotovoltaico e tutto, però non si, gli operai se ne sono tutti andati perché la ditta che c'era mi sa che ci sono usciti male, e adesso ci hanno detto di avere pazienza che appena si liberano da un altro cantiere tornano qua per finire, speriamo bene. Però guarda, grosso modo io credo che la roba inerente al 110 sia pressoché fatta, perché il gabbiotto è roba spesa che dobbiamo fare noi. E i terrazzini interni è una spesa che dobbiamo fare noi, e credo che dalla parte opposta alla mia abbiamo pitturato tutto, credo di sì. Poi non so se debbano venire ispettori per verificare se tutto è stato fatto a regola d'arte, se è stato approvato, se sale la classe di merito, quello non si sa, tutto è in alto mare. Esatto, e ne avremo ancora per un altro annetto tra una cosa e l'altra. Anche noi abbiamo il fotovoltaico tutto collegato, però finché non finisce il cantiere praticamente l'amministratore ha detto che non può fare il contratto con l'Enel, capito, per ridurre i costi dell'energia. E ho detto, il cantiere quando finisce? La ditta ci deve dare una risposta adesso, e passano mesi e siamo ancora così. Va bene, se no annoiamo tutti gli altri con queste questioni. Riprendi Gianni. No dai, sono cose interessanti, sono cose. Io sono fame, non so se. Saperle. lo so. Noi invece lo dovevamo fare, avevano bloccato il periodo che lo dovevamo fare e non siamo andati avanti. Non so se faranno qualcosa. Un attimino solo che vado in bagno, un secondo. Ripeti Marco. Eia, aveva ripreso anche Antonello, vediamo se è entrato. Antonello, ci sei? Sono qua. Ciao, buonasera. Ciao Antonello. È stato anche Carlo. Ciao Antonello. Ciao, con la buonasera anche a te. La verità. Tutto a posto. Tutto a posto, tutto a posto. E tu, di quella roba ne hai visto? Sì, la verità sì, la verità. Tutto a posto, ci mancherebbe. Quella trasparente, vacci piano e con quella. No, lascia perdere. Con quella, neanche ci ha fatto che cosa. Quindi a un certo punto carburato mi sembra, per carità. Oh, iaia. Antonè, com'è la carburazione? A posto, per Dio. Mi manca solamente qua, quella che ha detto in pratica che non si vede nessuno. Quindi a un certo punto, ma c'è una faccia che sta a me mica una minaccia, no. Natalino, riprendi, attentomi domani che non taglino mi. Sì, lui. Infatti. Ok, ne approfitto, io scendo giù un attimino che devo saldare un condensatore a un alimentatore, a vedere se funziona, di quegli alimentatori della Lidl, e di un mio collega, e mi ha detto guarda se riesci a aggiustarmelo, e praticamente no, c'è il condensatore che era partito, adesso l'ho trovato, 60 centesimi, e magari glielo rimetto a posto. Devo solo saldarlo e tagliare le gambette, capito? Perché quello nuovo ce le ha lunghe, dopodiché lo provo e dovrebbe andare. Ci sentiamo tra un attimo se ci siete ancora, se no buona serata a tutti, dai. Sì. Ciao Carlo, ma dopo se ci sono ancora. Ah, Simone. Chi è Simone? Ah, Simone, ho detto. Ciao Gianni, dai, ho cambiato apparecchio. Adesso ho messo il Ruiz. Ma il mic è quello lì? E il coso è quello lì? K, la static. Si sente già, si sente, mamma mia. Io poi con la voce mia non piaceva niente, diceva è tutto metallico, gracchiato, perciò. E poi comunque queste guaine dei cavi, dei microfoni, si rompono troppo in fretta. Hai visto come si taglia? Un taglio netto sembra fatto a bisturi. E me l'ha fatto già in due o tre microfoni. Sì, Marcisco, sì, io gliel'ho cambiata, questo microfono, gli ho cambiato tutto il cavo. Ok, hai fatto bene, ma spiralato sempre o dritto? No, spiralato, a me dritto non piace proprio, mi piace spiralato. Di modo che io quando sono coricato se tiro non si tira la panica presso. Non so se ve l'avevo detto ieri, che avevo preso una ventosa su Amazon, una ventosa grande, mi pare si allarga circa 10 centimetri, con un attacco che va a vite e praticamente serve a mettere un baracchino all'altezza del cruscotto, tra il vetro e il cruscotto lì. Lo fissi a vetro e rimane lì, a portata di mano, anziché essere in basso o nelle portiere o in zone assurde. E devo ancora provarla. Comunque, un giorno che fa bel tempo, prima o poi dovrà migliorare il tempo, e poi mi farò un giro e lo collaudo. E credo che sia anche poco invasivo per la visuale, perché col nuovo codice della strada c'è anche quella rogna, e non devi avere visuale libera, cioè non devi avere massi di pupazzi che scendono tipo dallo specchietto retrovisore, capito? Oppure smartphone a mezza altezza, nulla, deve essere libero quella fascia. Quella fascia lì, dai, già capito. Sì, Marco, ma occhio, perché la cosa ventosa con il caldo, la ventosa si stacca, figaggi in terra, perché a me me lo fa anche col coso, col tonton. Quando lo metti, quando c'è caldo, praticamente si stacca da solo. Vediamo, infatti non l'ho mai provata, non l'ho mai tolta nemmeno dalla scatola. Ed è di quelle ventose che tu la metti e poi c'ha quella leva per fare, per succhiare, mi hai capito? E anche il tonton ce l'ha quella leva. Quella leva lo spinge verso il vetro e lo blocca, però con il caldo si stacca. Poi queste ventose non è che servano molto. Carlo, avanti. Carlo non c'è. È andato a saldare. A saldare? A saldare che? E quel condensatore che ha detto. Ah, ho capito. L'ha trovato originale? Da Fusaro. GBC era nei miasmi dei, o come si dice, era nel caos, no? Dice se lo trovo ti chiamo. E devono fare gli scavi archeologici là per trovare roba. Poi apre tutti i cassetti, non sa manco dove la roba, quando tu gli chiedi qualche cosa ti apre tutti i cassetti perché non sa dove l'ha messo. Secondo me deve dire quello. Comunque triste anche da sentire, si è sentito praticamente lì dietro il bancone, dietro c'ha bottiglie buttate, rifiuti, lui sta camminando sui rifiuti quando sta dietro il bancone, non è una situazione normale, posso capire le scatole, la merce, però lì bisogna, non lo so, qualcuno si deve interessare, familiari, quello che è. Secondo me non ce la fa più Tonino, dopo che è morta la moglie un po' si è lasciato andare. Ma lui aveva anche una patologia importante? Ho capito male io? Questo non te lo so dire, Marco. forse Antonello mi aveva detto qualcosa, che avevano qualcosa di non proprio benigno, e quindi vabbè, però avevi sentito dire, io non, personalmente non glielo chiedo, non ho così confidenza, ecco. Ah, ecco, non so cose che si chiedono, se che te lo dice è un conto, ma a chiedere queste cose non fa. Io sono molto delicato su certe cose, non le chiedo. Ok, comunque Marco, quello che ti devo dire io è che praticamente non avevo trovato un cavo corto e sono andato da Fusaro e c'aveva questo cavo, sarà stato 1,5 metri e gli ho messo quello da 1,5 metri, così non devo fare fatica a tirare, a fare, me lo posso portare, girare nel letto e tutto. sì, tanto... l'importante che non dia, vabbè, perdita, se non è da, non c'entra niente quello. Basta che sia comodo da usare, va bene, dai. È comodissimo, ti sto dicendo, non c'è bisogno manco di tirarlo, è tutto un mezz'ore, è anche troppo lungo. E comunque va bene, dai. E come microfonia, come la senti? È tipico della statica, è molto metallico. Mamma mia, a me non piace. Natalino, cosa ne dice? Sì, dicasi altrettanto. È un bel metallico, ecco il microfono. Però capibile già. Cioè, una cosa può non piacere una moderazione, però è capibile, niente da dire. Ehi, sì, lo so. È come il diavolo rosso, il Devil Reading. Devil Reading, boh. Vabbè, diavolo rosso. Quello lì, lo vantavano tutti, me lo sono comprato, l'ho pagato più di 70 euro quel microfono. C'era scritto che aveva l'antisoffio, eccetera, eccetera, quando c'era vento sentiva il vento. In più mi dicevano che usciva tutto metallico, eccetera. Alla fine me lo sono venuto perché e lo vantavano tanto, Marco. Hai comprato, Marco? Eia già, eia, e infatti troppo se lo fanno pagare per com'è. Qua esce molto meglio un KPO, o persino l'M93 ZG, capito? Un attimo bianco per me che mi chiamano. Eia. Avanti a chi tocca, Antonello, ci sei, ricordi tu, Antonello, andata via, Natali. Ehi, Antonello, guarda, è torna, senza di niente. Così come nello scelto. Tra una birrozza e l'altra, così. Sì. Nella finale dell'11. Magari c'è la compagna che non sta bene, boh, magari lo chiama. Sì, lo so. Scappa. E questo è lui, se li becco un altro microfono a lui se glielo voglio mettere, ma di quelli antichi però. Un microfono tipo quelli cromati, ce ne presenti quelli cromati da tavolo, quelli che hanno una forma strana? Sì, già lo so, già li conosco. Quello li metterei, perché questo qui è un bel apparecchio, si adatta a molti microfoni. Sì, lo so. Vincere quel contest, che motore è? Io ne ho due, che me li devo vendere, non me ne faccio nulla. Sono un M60 e un Farmer, più 3. Che